provincia di Ancona, che abbiamo fatto lì attendere in Salamoia per un po'. Stefano, benvenuto, eccoci qua, lei. La crostatina del dottor Confalonieri non mi manca mai. Mi piace un sacco questa indicazione. Ci dice cuore denari in brasiliano, in brasileiro? Coração e dinheiro. Bellissimo. Non ho aggettivi per definirvi, ve li hanno già detti tutti praticamente. No, no, ma lei si sforzi, non si preoccupi, guardi. Andiamo in crescendo, non è un problema. Sempre allegri bisogna stare, che nostro piangere fa male al re. Male al ricco, al cardinale, diventa tristi se non piangiamo. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E vado su, su, su, e vado giù, giù, giù. Lo facciamo con una certa frequenza, consciamente circa 150 volte nelle 24 ore, quando dopo aver masticato mandiamo giù il boccone, il bolo, si chiama così per essere precisi, e inconsciamente ogni 30 secondi quando mandiamo giù la saliva, quando siamo svegli, e ogni minuto quando dormiamo. A conti fatti, nell'arco della giornata deglutiamo tra le 1600 e le 2000 volte. Lo stiamo facendo sicuramente anche ora, e allora come va? Vi è mai capitato di avvertire una sensazione di fastidio, come se aveste un groppo in gola? Ne parliamo tra poco. Intanto deglutite, non andate via, ci aspetta un'altra straordinaria puntata col professor Dino Vaira, gastroenterologo e professore di medicina interna all'Alma Mater di Bologna. 800 24 00 24, iniziate a prenotare i vostri interventi. Ma prima deglutite. Per i denari, a partire dalle 11.45 volteremo pagina per dedicare anche noi uno spazio alle notizie drammatiche di questi giorni, e lo avete sentito anche nelle anticipazioni che ha fatto Nicoletta nel corso del giornale radio. Sono davvero dei bocconi amari da digerire quelli che ci tocca osservare anche dai telegiornali ogni giorno. Ci riferiamo alla strage del Mediterraneo, una di quelle notizie che proprio non ci vanno giù e che vogliamo affrontare senza demagogia, polemica, ma a modo nostro, usando il cuore, ma chiedendoci anche qual è il modo migliore per usare i nostri denari in questi casi, se può essere, e qui ci racconterete anche come vi comportate voi in questi casi, un modo concreto per fare la propria parte. Parleremo allora nel concreto anche di dichiarazione dei redditi e di destinazione del 5 per 1000 alle organizzazioni del terzo settore. In frangenti come quello attuale, in molte si mobilitano per aiutare queste persone. A partire allora dalle 11.45, 800 24 00 24 per iniziare a prenotare i vostri interventi. Il primo signore ha un cappello e gli occhiali da sole, quell'altro li porta da vista. Il terzo è arrivato da poco, sorride, si deve ancora ambientare. Lo state ascoltando, Enrico Ruggeri. Perché in questa puntata? Ve lo spiegheremo tra poco, ma intanto andiamo subito al tema. Noi oggi parliamo in un certo senso di digestione. Lo sappiamo che inizia in bocca, ce lo dimentichiamo spesso perché mastichiamo poco e male, troppo in fretta, giusto una sminuzzata sommaria e via, deglutiamo così, non ci pensiamo più, avanti un altro e via così, boccone dopo boccone. Quanto tempo impiegate per mangiare un panino? O per finire un bel piatto di pasta? Divorate o degustate? Siete quelli che finiscono per primi o invece arrivate ultimi? Chiamateci e provate a pensare, no? Quanto tempo ci mettete a consumare uno spuntino come quello di metà mattina o un pasto? Date i vostri numeri, perché in linea con noi ad ascoltarvi è tornato il professor Dino Vaira, gastroenterologo e professore di medicina interna all'Alma Mater di Bologna. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Professore, la puntata di oggi vuole essere un'occasione per spiegare quella difficoltà che a volte incontriamo nel deglutire, atto che noi consideriamo automatico e scontato, ma che in realtà richiede un bel lavoro, il lavoro di ben 50 paia di muscoli e nervi. Ma dato che la deglutizione è solo uno dei passaggi di un percorso che inizia dalla bocca e finisce nello stomaco e da qui nell'intestino, per fare le cose per bene percorriamo il viaggio viaggio che il nostro boccone fa per passare dalla bocca allo stomaco. Quindi seguiteci e prenotateci, prenotate eventuali fermate per saperne di più se avete la sensazione di avere un groppo in gola, se avvertite una inspiegabile fame d'aria, se soffrite di singhiozzo, se avete la digestione che è lenta e difficile, se lamentate la pancia gonfia, se avvertite bruciore o dolore alla base della gola, all'inizio dello stomaco, specie dopo i pasti. Professor Vaira, manca qualcuno? Forse possiamo anche rivolgerci a chi fa fatica a mandare giù le pillole, le compresse? Perché no? Perché ecco. No, mi sembra un'ottima idea questa, assolutamente sì. E aggiungerei solo il dolore al petto, quel maledetto dolore al petto che ci permette, che ci allarma e ci fa andare in pronto soccorso. Bene. Con la velocità della luce. 800 24 00 24, professore, si parte, iniziamo a masticare. La posata, come dice un amico di Cuore Denari, va posata. Professore. Carina questa, molto molto carina questa cosa, la posata. Dunque, come giustamente lei diceva, dobbiamo assolutamente iniziare dal primum movens. Il primum movens è il cavo orale, cioè quando noi mettiamo in bocca questo benedetto boccone, che lei ha chiamato in maniera mirabile il famoso bolo alimentare, che è una cosa, sembra un'astronave, ma in realtà altro non è che il nostro meraviglioso tortellino. Io sono a Bologna, quindi per forza devo fare il tifo per il tortellino, e fa deve bene essere introdotta. Quindi masticare lentamente, noi di solito mastichiamo in modo sommario e di fretta perché abbiamo sempre tutte le altre cose da fare o abbiamo molta fame. Ammetto di invece, essere tra questi. Invece le nonne dicevano la masticazione, la digestione inizia in bocca, è proprio così. Possiamo quantificare, ci sono su internet delle indicazioni su quante volte noi dovremmo masticare il boccone. Professor Vaira. Basterebbe seguire la nostra nonna, come giustamente ha detto lei, fare le cose fisiologiche normali. Arriva sto benedetto tortellino e lo mastichiamo invece di deglutirlo come se fosse una grossa pillolona, quindi ci togliamo anche il gusto meraviglioso di assaggiarlo. È follia quello che stiamo facendo, dobbiamo assolutamente renderci conto che stiamo andando verso un mondo folle. Invece dobbiamo ritornare all'epoca delle nostre donne, dove il tortellino e l'orecchietta veniva masticata, assaporata e quindi innanzitutto digerita, che è la cosa fondamentale. E a proposito di masticazione, avete sentito prima un estratto, avete sentito Enrico Ruggeri. Bene, oggi torna il domandone per dare la possibilità di ricevere 4 copie di bigliette per Pezzi di Vita, che è il tour 2015 di Enrico. Assegniamo una coppia di biglietti per la data di Milano del 27 aprile, sì, fra poco, lunedì prossimo, al primo ascoltatore che chiamerà il nostro numero verde, fatelo ora, per raccontarci che ruolo ha la saliva nella digestione. 800 24 00 24. Rimangono altre 3 coppie di biglietti per la data del 28 aprile a Torino. Restate con noi perché subito dopo i mercati faremo un altro domandone. L'appuntamento di Torino sarà il 28 di aprile e vi daremo martedì tutte le indicazioni. Adesso, professor Vaira, torniamo a noi. Mandiamo giù, dopo aver masticato più o meno lentamente, la saliva ha fatto quello che doveva fare e mandiamo giù. Ma a volte la cosa non ci sembra naturale, quasi dovessimo aiutare il bolo a scendere, insomma facciamo un po' di fatica. Abbiamo come l'impressione che le pareti dell'esofago si siano ristrette. Come possiamo valutare questa condizione, professore? Soprattutto, quali sono i segnali che vanno considerati con attenzione per così fare una linea, no, di confine tra una situazione fisiologica e una che richiede un'analisi più attenta? Bellissima domanda, Nicoletta. La cosa fondamentale è stare attenti se questa difficoltà ce l'abbiamo anche con i liquidi, con lo stesso bicchiere d'acqua. Questa è la linea di demarcazione. Se abbiamo difficoltà a mandare giù anche dei liquidi, dobbiamo assolutamente con molta cautela allarmarci, mentre se abbiamo difficoltà col cibo solido, col grande boccone, possiamo tra virgolette pseudo tranquillizzarci. Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù. E con la pillola è andata giù anche il professor Vaira, è caduta la linea. Ecco, vi avevamo segnalato proprio tra gli spunti, no, per aiutarvi a intervenire, a pensare se la puntata di oggi poteva essere di vostro interesse, di raccontarci se avete una certa difficoltà a mandare giù la pillola. È così piccola la pillola, la compressa, ma a volte non basta lo zucchero, si neanche proprio lì in cima. Non basta né lo zucchero, e poi lì sulla parola zucchero poi attiverebbe tutta una serie di problemi, neanche il bicchiere d'acqua. Professor Vaira, l'abbiamo ripescato, perché ci sono delle persone che hanno questa sorta di difficoltà, quasi un blocco a mandare giù cose così piccole? Perché sì, ci sono delle compresse che sono un pochino grandi, però si possono rompere in due. Come mai, professore? E intanto vi faccio una confessione in diretta. Io faccio una difficoltà maledetta a mandare giù le pillole. Ecco, il motivo per cui faccio questa difficoltà è perché rifiuto le medicine. Quindi tendo di dare meno medicina possibile ai miei pazienti e possibilmente anche a me stessa. Quindi il primo blocco, adesso parlo sul serio, è veramente mentale. Cioè l'idea di mandare giù una medicina sicuramente non è una cosa gradevole. Quindi l'effetto psicologico la fa da padrona. Perché mi creda, se dovessimo mandar giù un cioccolatino, pochissima gente avrebbe questa difficoltà nella deglutizione. Infatti l'aspetto psicologico conta, perché, professore, la difficoltà a deglutire si può avvertire anche quando non abbiamo un bolo o una pillola da mandare giù. Il nostro sistema digestivo è in stand-by, non è impegnato a lavorare, ma non si sa come avvertiamo quella sensazione di un corpo estraneo, una specie di nodo alla gola. Che succede? È un segnale di stress, di ansia? Noi abbiamo sempre questo meraviglioso decimo nervo cranico che si chiama vago, che è un nostro amico, che ci innerva l'esofago, ci innerva il cuoricino, ci innerva lo stomaco, ci innerva l'intestino. Quando lui è tranquillo fa sì che l'esofago faccia progredire questo benedetto bolo. Quando il vago non è tranquillo vuol dire che noi non siamo tranquilli, perché abbiamo dei problemi, delle problematiche, perché siamo tesi, perché siamo nervosi, come se si vigilisse, come se si pseudoparalizzasse, quindi come se arrivasse una scarica elettrica che fa momentaneamente bloccare la peristalsi, cioè il movimento dell'esofago, e questo ci dà questa sensazione esattamente come lei stava descrivendo. Professore, torniamo un attimo indietro, andiamo su e giù e torniamo indietro alla nostra stazione di partenza, la nostra bocca. A volte per fretta, per voracità, insieme al cibo, mandiamo giù l'aria, non ce ne rendiamo conto, ma poi il conto arriva, perché la pancia si tende, diventa gonfia, la digestione si fa lenta e difficile. Ne abbiamo parlato tante volte, ma sicuramente questo è un momento per ricordare che a volte tutto quella sensazione di gonfiore e alcuni dei problemi digestivi che più tante volte lamentiamo derivano proprio dalla mancata digestione della bocca. Ancora una volta quello che vi dice è assolutamente corretto, perché noi invece di masticare deglutiamo, e in più mentre deglutiamo parliamo di lavoro, parliamo delle nostre cose, parliamo delle nostre ansie, parliamo delle nostre tensioni. Quindi è veramente il massimo del negativo, mentre dovrebbe essere un momento un attimo tranquillo in cui lei si ricorda che i nostri genitori ci dicevano quando eravamo piccini: ragazzi, non si parla quando si ha la bocca piena. Se lo ricorda, vero? Certo che me lo ricordo, e non era solamente una cosa per di educazione. Esattamente questo è l'input è proprio questo, perché nel momento in cui uno è costretto anche a parlare con la bocca piena è ovvio che deve deglutire quello che ha in bocca per poi avere questo tipo di difficoltà. Ricordate che oggi parliamo della difficoltà di deglutizione, vi abbiamo richiamato alcune situazioni per attivare naturalmente la vostra curiosità e i vostri interventi. Se il professor Vaira ha detto di fare attenzione se avvertite un dolore, un fastidio quando deglutite dei liquidi, vi abbiamo anche chiesto per il nostro domandone, perché dobbiamo mandarvi al tour, a partecipare al tour di Enrico Ruggeri nella tappa di Milano. Che ruolo ha la saliva nella digestione? Molto semplice, 800 24 00 24. Ci sarà poi un altro domandone, apriremo naturalmente anche al nostro numero verde e alla nostra pagina di Facebook. Intanto ci ha chiamato Agata dalla provincia di Bergamo. Buongiorno Agata, benvenuta. Buongiorno a tutti. Eccoci Agata, siamo pronti per sentire la sua richiesta. Oh, mi scusi, sono un po' nervosa perché è la prima volta che chiamo un programma in radio e soprattutto uno che mi piace tanto come il vostro. Grazie Agata, partiamo con un libro di Cuore Denari che subito, così le diamo in il automatico benvenuto. Proprio, oh, grazie mille. Ecco, grazie, prima telefonata, grazie. Primo regalo. Agata, oh, allora. Grazie mille. Allora, io da anni che ho questo problema, sento... Scusate se non uso parole molto professionali. Ma il professor Vaira capisce, vero professore? Sento come di avere, sento come di avere una pallina in gola, come se fosse, all'inizio pensavo che era tipo un muco del catarro che mi era rimasto da un raffreddore. Ho fatto tantissime visite mediche, non è stato mai trovato niente. Che va giù quando, che va giù quando lei deglutisce e poi sembra che torni sempre. Su? Sì, ma non sembra neanche che riesco a mandarlo via. Giù. Sì, giù. E quindi ho fatto tanti esami, avevo avuto la sensazione che i medici mi guardano come dicendo lei non ha niente. Ma però lei sente questa sensazione di pallina in gola. Professor Vaira. Questo è il tipico sintomo dell'eflusso gastroesofageo. Su 100 persone che hanno questo tipo di sintomo, io le garantisco che quando vado giù con l'endoscopio, cioè con la telecamera, non trovo un fico secco. Quindi quello che dice Agata è assolutamente la realtà. In pratica non funziona lo sfintere, che si chiama cavias o sfintere esofageo inferiore, quindi l'acido dallo stomaco torna un filino su per l'esofago, la mucosa dell'esofago non è stata creata per digerire e si irrita come se fosse in pratica colpita da una scossa elettrica che arriva fin su al cavo orale. Un elettroshock per l'esofago. Un elettroshock l'esofago. Minimo ma assolutamente fastidioso. Allora Agata ci ha dato, Deborah lo sa, un assist magnifico perché certo. Nella seconda parte dopo i mercati vogliamo proprio occuparci di quando il cibo torna su, noi lo mandiamo giù ma lui ritorna su e quindi di così dare una spiegazione a tutta quella situazione di fastidio dolorosa, ma soprattutto vogliamo capire che cosa succede al nostro esofago che, come ha spiegato il professor Vaira, non è nato per stare a contatto con il cibo che risale, che è acido. Marcello, buongiorno dalla provincia di Siena, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei. Buongiorno. Buongiorno. E quindi le do un po' di, come dire, di indicazioni per quel che mi sta succedendo ormai da molti anni. Io sono una persona che sono molto attento nel mangiare, quindi non solo nel mangiare ma anche nel bere, quindi non bevo alcolici, quindi il caffè ne prendo massimo 3 al giorno, sono molto attenti a non mangiare insaccati, insomma, tutta una serie di cose. Malgrado tutta questa attenzione, bene, ho dei seri problemi. Ho fatto tutte le analisi possibili, immaginabili, e tutti mi dicono lei non ha niente. Signor Marcello, stia tranquillo. Stia tranquillo, però Marcello non sta bene. Professor Vaira. No, perché mi si gonfia, si gonfia enormemente la pancia, basta che metta insieme una mela, ma nemmeno una mela, una frutta mi si gonfia la pancia. Basta che, come posso dirle, sono un pochino meno attento nel condire, che ho un'acidità poi continua dove devo prendere un pochino di magnesia grazie Marcello è la tipica persona che dice faccio tutto però alla fine poi non riesco mai a stare bene, quindi si priva di una serie di cose, è molto attento. Professor Vaira, dicevo, con Marcello ci faccio gli esami con i miei studenti perché Marcello c'ha tutto. Lo invito a Bologna, poi lo faccio esaminare dei miei studenti, in base a quelli li boccio, li promuovo. Però devo dire che anche Deborah ha già fatto una diagnosi. Assolutamente. Qua l'intestino è ancora più polispecialistico, polipatologico. Quindi Marcello sicuramente ha un reflusso gastroesofageo, sicuramente ha un'iperacidità e sicuramente una disbiosi, cioè tre cose tutte assieme. Intanto quei famosi almeno 3 caffè al giorno sono tantissimi per uno che ha questo tipo di sintomi. Uno, due, sicuramente ha un'alterazione della flora batterica i famosi batteri buoni, i famosi batteri cattivi, che creano una enorme fermentazione, quindi un'enorme quantità di queste piccole bollicine di gas che manco a fare la posta si vanno a infilare nel fondo dello stomaco dove hanno spazio, e indovinate dove premono? Premono sul caviar, sullo sfintere esofageo inferiore, quindi dando tutte le problematiche che diceva il buon Marcello. Quindi A, assolutamente acqua; B, assolutamente non caffè; C, assolutamente non cioccolata; D, non pepe, non peperoncino; e infine non agrumi. Queste sono le indicazioni del professor Weir, per il nostro polipatologico. Per il nostro, ma Deborah, tu avevi già ci siamo un po' guardate e parlate, mi ero toccata un po' con la mano nel punto giusto, diciamo, del fisico, dell'addome. Ormai già intercettato, vero? Va bene, ma tu adesso intercetti i mercati? Sì, vado a toccare l'addome dei mercati adesso, va per tastare un po' qual è la situazione. Per tutte le vostre domande 800 24 00 24, ricordatevi che adesso noi siamo andati giù, abbiamo mandato giù il bolo, ma adesso noi ritorniamo su con tutti i disturbi che questo può provocare, ma con un'attenzione particolare al nostro esofago, che come capita a noi, a contatto con delle cose che non gli piacciono e non vuole essere, alla fine si irrigidisce. A tra poco. Cuore e denari. Rivolgo un accorato appello affinché la comunità internazionale agisca con decisione e prontezza, onde evitare che simili tragedie abbiano a ripetersi. Sono uomini e donne come noi, fratelli nostri, che cercano una vita migliore. Ed è proprio con le parole di Papa Francesco che vogliamo avvicinarci nel nostro stile Cuore e Denari alle drammatiche notizie di questi giorni, a cui non potevamo non dare uno spazio. Noi naturalmente terremo rigorosamente fuori dal nostro programma polemiche sterili e inutili. Abbiamo scelto di concentrarci su un taglio che parla al cuore, ma ci interroga anche sul nostro portafoglio, o meglio sulla nostra dichiarazione dei redditi. Donare una somma o devolvere il 5 per 1000 ad un'organizzazione è per voi un modo per aiutare? Anche quando sentite notizie drammatiche come questa, possiamo parlare del naufragio, come del terremoto, di altre situazioni appunto che ogni tanto purtroppo ci colpiscono. Come funzionano questi strumenti? Tra l'altro ne parliamo perché la stagione della dichiarazione dei redditi ormai è entrata nel vivo. Come scegliere anche le organizzazioni a cui devolvere queste cifre? Ne parleremo nella seconda parte della puntata. Voi intanto iniziate a condividere con noi opinioni e racconti all'800 24 00 24. Che cosa facciamo se lo vediamo? Insomma, cosa vuoi capire guardandolo? No, a meno che, se Dio ci aiuta, non strangoli un passante. Non lo so, Sid, sto improvvisando. Beh, io dovrei essere a casa a lavorare alle mie magie. Ehi, perché non la prendi come una cosa che aggiunge emozione alla tua vita? Ehi, piccola, emozione nella mia vita è una cena senza bruciore di stomaco. Lo mandiamo giù, ma a volte torna su e questa risalita si accompagna a sintomi molto fastidiosi come il bruciore e il dolore. Il problema è molto diffuso, un nome che la dice lunga, reflusso gastroesofageo. Ne abbiamo parlato tante volte insieme al professor Vaira, che è in linea con noi. Ne stiamo parlando anche ora in questa puntata in cui abbiamo seguito il bolo scendere, ma a volte si torna su. Vogliamo individuare naturalmente le cause e le possibili soluzioni. All'800 24 00 24 tutte le vostre domande, i vostri dubbi. Ci vogliamo occupare dell'esofago perché lo trascuriamo sempre un po'. Ma intanto, come promesso, ecco la domanda che permetterà a tre di voi di ricevere a casa una coppia di biglietti per la data, questa volta di Torino. Andate insomma nella mia città, il 20 anche di Marco Lombardo, il 28 aprile. Pezzi di vita, il tour di Enrico Ruggeri. Professor Vaira, lei è un po' lontano, ma se no potremmo andare anche noi. Lei saprebbe sicuramente, ha già aiutato i nostri ascoltatori a rispondere a questa domandone. Diteci almeno tre accorgimenti per alleviare il reflusso gastroesofageo. 800 24 00 24, ma potete anche mandare la vostra domanda via sms al 349 238 6666 e sulla pagina pagina dei nostri social, quindi dovete andare sul sito di Radio 24, esatto, magari registrandovi, e poi da lì transitate automaticamente i social. Chi prima arriva meglio alloggia, meglio alloggia. Prima va, insomma. Come ha fatto Clara da Torino, no? Brava, Clara. Clara, benvenuta. Vuole andarsi sì, a godere buongiorno. Il concerto di Enrico Ruggeri. Fa bene, come la capisco. Ma ascolti, io... Pronto? Sì. Ascolti, ma io adesso ho sentito... io ho acceso la radio e avevo sentito una certa cosa circa la saliva, no? Era il primo domandone, era per Milano, ma va bene anche per Torino. Via, ah, Clara, ecco, dai, che bene, così sentiamo... Ho sentita un'altra, allora mi sono detta, ma allora cosa ho sentito, capito? Va bene. Questo quando... Noi siamo di manica larga, ecco, qui a per Cuore le Denari, voci, eh? Quando sentiamo altre voci, un'altra puntata. Ho sentito una voce, vi rimandiamo ad un'altra puntata di Cuore Denari. Allora, la saliva che cosa fa, Clara? Allora, io la mia risposta è questa, che la saliva contiene una sostanza che si chiama picchialina che tramuta gli amidi in zuccheri. Vediamo se il professor Vaira la porta con lui a Bologna insieme a lezione, a fare gli esami. Non vale, Clara è iscritta a medicina e chirurgia, non vale, fuori, non vale, che sta bleffando. Vedi che il professor Vaira ci dà grandi soddisfazioni. Brava Clara, e così se ne va a sentire il grande Enrico. Enrico, all'Eroa. Complimenti Clara, complimenti. Sì. Dove andiamo? Andiamo a Pavia adesso, guarda che ci aspetta Gianluca, per cui andiamo subito a risolvere il suo problema, perché poverino mi pare di capire che soffra di singhiozzo frequente. Gianluca, benvenuto. Grazie, sono Gianluca. Il mio problema appunto è che di frequente dal nulla mi compare un singhiozzo fastidioso, e però così come è venuto se ne scompare. Provando anche quei metodi classici della nonna, modello trattenere il fiato, bere il bicchiere d'acqua, non risolvo nulla. E quindi quanto le dura in media, Gianluca? Allora, varia dal 30 secondi anche a 5-10 minuti. Beh, 30 secondi è proprio un basta. Comunque, esatto. Professor Vaira, singhiozzando. Sono un po' arrabbiato perché Deborah e Nicoletta stanno diventando troppo brave e fra un po' non avranno più bisogno di me. No, di lei, lei viene a fare il conduttore, noi facciamo le esperte, guardi. Vabbè, un po'. e lì si rischia. Però che citate anche i miei pazienti qui a Sant'Orso. Sì, volentieri, veniamo a fare le dottoresse. Dunque, Gianluca ha perfettamente ragione, questa è veramente una cosa fastidiosissima, è dovuta a un'irritazione di un nervo che si chiama il nervo frenico, non sappiamo il perché, questa è la verità vera, sicuramente il reflusso influenza questa irritazione di questo nervo frenico e sicuramente non ci fa piacere avere questo maledetto, benedetto, in realtà è maledetto singhiozzo. Il vecchio rimedio della nonna, cioè il famoso bicchiere d'acqua, aiuta assolutamente, ma sicuramente fare un pizzico di terapia con dei banalissimi antiacidi potrebbe sicuramente migliorare questo sintomo. Nei casi in cui il singhiozzo naturalmente si ripresenti in modo frequente. Sa, professor Vaira, che lei ogni tanto va via, a me mi cade un po' il cuore per, sotto i piedi, perché è vero che ormai io e Deborah siamo diventate abbastanza brave. Sì, ma non so vorrei... se però Deborah riesce proprio a dirmi che cosa in sostanza succede all'esofago quando, per una serie di ragioni, ma soprattutto in chi soffre il reflusso, in chi sa e anche in chi non lo sa, perché molti soffrono di reflusso, ma dato che ha una sintomatologia un po' particolare, non ne sono consapevoli. Questo esofago, irritato da questo cibo che torna su mescolato agli acidi, che cosa fa? Rischia, professor Vaira? È un massacro, sinceramente, a parte gli scherzi, è veramente un massacro. Cioè, non abbiamo dei rischi di grosse e brutte patologie, però in compenso ci infelicitiamo la vita, che è una cosa molto importante, perché ne va della nostra dignità, della qualità di vita quotidiana. Quindi realmente bloccare questo benedetto reflusso, non dico guarire, ma migliorarlo all'80-90%, significa lavorare meglio, significa studiare meglio, significa essere più allegri, significa essere più gioviali, significa essere meno nervosi, meno mal di testa, meno lunatici. Quindi è reale questo tipo di problematica. Adesso parliamo seriamente. Il peso è veramente fondamentale, cioè l'overweight, essere sopra il peso è veramente una cosa fondamentale, perché aumenta questa pressione intraddominale, è come se sfiancasse questa piccola valvolina. Quindi questo è in assoluto, ancora prima del trattamento farmacologico, ci serve assolutamente dimagrire, ci serve assolutamente fare sport, possibilmente andare a ballare, che ci fa tanto tanto bene, nel senso che c'è sia l'attività fisica che quella psichica, perché queste due componenti vanno sempre a braccetto. Allora, abbiamo un messaggio di Edoardo. C'è sempre grande attenzione per capire e individuare quelli che sono considerati sintomi extraesofagei del reflusso, perché sono tanti e diversi, perché chi soffre di reflusso non solo avverte questo bruciore all'inizio, alla bocca dello stomaco e sale fino in gola, ma ha tutta una serie di problematiche che ben ci racconta anche il messaggio di Edoardo. Esatto, che... fitte al diaframma, quindi qualcosa di completamente, apparentemente estraneo, no, ad una patologia. Infatti, sai che ci sono delle persone che soffrono di reflusso, avvertono un dolore proprio al torace, come che mima quello di un infarto, e giustamente si recano al pronto soccorso. Professor Vaira, è così? È proprio così. Non più tardi di ieri ho visto questo avvocato qui vicino di Bologna, che gioca a pallone, che fa tanto sport, che è assolutamente fit, cioè assolutamente non è overweight. Lui, giocando a pallone, si incavola con una pantera e gli parte il cuoricino con la tachicardia, cioè con il cuore in gola. Questa mattina ho fatto l'endoscopia e ovviamente aveva una incontinenza di questa valvola. Quindi in realtà questo stress, questo agonismo eccessivo non fa altro che sfiancare questa valvola, crea questa irritazione della parte terminale dell'esofago che va a stimolare in senso negativo il ventricolo sinistro, simulando un vero e proprio attacco cardiaco. Professor Vaira, io guardo adesso l'ora, sono le 11.45, dobbiamo salutarla. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio dalla bocca allo stomaco e dallo stomaco tornando su verso l'esofago. Ne torneremo sicuramente ad affrontare questo tema. Professore, soprattutto sulla questione di tutta la sintomatologia un po' strana. C'è sempre posto qui al Sant'Ursula per entrambi. Va bene, veniamo, compriamo il camice, ti mettiamo un po' per bene e arriviamo. Grazie, camice professore. Camice fonendo, mi raccomando. Camice fonendo e ci arriviamo. E alle 8 di mattina digiuno. Va bene, grazie professore. Buona giornata. A tutti gli ascoltatori. Noi abbiamo, alcuni di voi naturalmente hanno risposto al 349-238-6666, dalla redazione segnaleremo, arriverà naturalmente la segnalazione per chi di voi si è accaparrato il biglietto per Milano. Ma continueremo anche a regalarne nei prossimi giorni, attenzione, perché anche domani, qua lo seguiamo per tutto il tour pezzi di vita. Comunque adesso è tempo di andare a sentire che cosa succede sulle strade e poi torniamo subito dopo per la seconda parte di Cuore Denari. A tra poco. Cuore e denari. Oggi l'abbiamo promosso in ogni modo, se non viene adesso a fare l'ospite di Cuore e Denari ci offendiamo anche, oltre a fare il falco e il gabbiano nel pomeriggio. Certo. Enrico, per cortesia vieni a trovarci, non possiamo solo regalare biglietti di pezzi di vita, ma noi abbiamo utilizzato, si può dare di più. Tu sei un pezzo di cuore per noi. Per me lo sai che io lo amo moltissimo. Abbiamo utilizzato questo brano tratto da Si può dare di più perché calzava a pennello per introdurre il prossimo approfondimento di Cuore e Denari. Allora, intanto proprio pochi giorni fa la Camera ha approvato il disegno di legge sulla riforma del terzo settore, provvedimento che ha l'obiettivo di effettuare una revisione organica delle norme sul volontariato, la cooperazione sociale, l'associazionismo no profit, le fondazioni, le imprese sociali. È un tema di grande attualità che si intreccia alla cronaca di questi giorni, la terribile sciagura dei migranti al largo della Libia e poi, lo so che vi apparirà un parallelo un po' strano, c'è anche la stagione della dichiarazione dei redditi che in queste settimane entra nel vivo e permetterà a molti italiani di scegliere, se lo vorranno, come devolvere il proprio 5 per 1000. Oggi tocchiamo un po' tutti questi argomenti dal punto di vista dei denari, facciamo un punto complessivo della situazione, anche se effettivamente sono temi che meriterebbero ognuno a sé un approfondimento speciale, ma in realtà è necessario oggi intrecciarli. Certamente Quando si verificano tragedie come quelle a sud della, come quella a sud della Sicilia, c'è chi fa polemica, chi commenta anche un po' vanvera, permettetemelo, chi invoca senso di responsabilità, ma anche il silenzio per le vittime della tragedia che non torneranno più dalle proprie famiglie. Non ci ricordiamo mai abbastanza, secondo me, di questo aspetto. C'è anche tutta quella collettività che osserva con il cuore pesante, che vorrebbe mettersi in moto in qualche modo per aiutare in particolar modo le comunità che per prossimità territoriale si fanno carico nell'immediato degli sbarchi. Vediamo sempre siciliani in prima linea nell'aiuto, portano cibo, portano coperte, insomma quelle popolazioni aiutano moltissimo. Le persone che arrivano stremate dopo questi viaggi della speranza, uomini, donne e tantissimi bambini. Mettersi in moto, aiutare, lo abbiamo detto tantissime volte, quando ci sono queste emergenze si può certamente contribuire, però è meglio farlo appoggiandosi ad organizzazioni strutturate, non mandando di propria iniziativa il pacco di pasta o la coperta che poi quando arriva nessuno è in grado di andare a raccogliere e gestire. Quindi quando ci sono, aderire a raccolte di iniziative consolidate, per cui informiamoci bene prima di lasciarci trasportare dall'emotività, che comunque è comprensibile. Allora, intanto diteci la vostra su questo tema, andando subito, come ci piace fare, al concreto delle questioni. 800 24 00 24, come reagite di fronte a notizie come quella della tragedia del Mediterraneo di questi giorni? Vi arrabbiate? Preferite non pensarci? Cercate un modo per agire, donare, offrire in qualche modo una vostra competenza o anche un po' dei vostri soldini? In quel caso come vi comportate? Raccontatecelo anche al 349 238 6666. I messaggi sono già fioccati, per la verità, o interagendo dalla pagina di Cuore e Denari sul sito di Radio 24. Allargheremo il tema, parleremo anche di come si fa a destinare parte delle proprie tasse ad un'organizzazione tramite il 5 per 1000. Voi lo farete? Avete già deciso a chi devolverlo e come avete scelto? Dopo questo lungo preambolo vi presento i nostri ospiti di stamattina: Riccardo Bonacina, fondatore e direttore del magazine Vita, quotidiano online e mensile cartaceo. Riccardo, direttore, buongiorno. Eccomi. E ben trovato. Buongiorno. Grazie. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. E Giampaolo Concari, commercialista, esperto di questioni fiscali nel mondo no profit, tra l'altro anche animatore del sito www.quinonprofit.it. Buongiorno Concari e benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ho messo l'accento sul posto giusto? Perfetto. Brava, promossa. Allora Riccardo Bonacina, ci immaginiamo il mondo del non profit non sempre in prima sempre in prima linea da tanti punti di vista quando sentiamo notizie drammatiche come quelle di questi giorni, no? Come si stanno attivando le organizzazioni in questo momento? Ci puoi fare un quadro delle principali organizzazioni umanitarie di volontariato in prima linea in questa nuova drammatica emergenza? Perché immagino che Vita stia un po' monitorando anche da questo punto di vista questa situazione. Chi è attivo in questo momento sulle nostre coste e non solo? Sì, allora diciamo, ci sono innanzitutto alcune grandi organizzazioni, no? Per esempio Medici Senza Frontiere, che ieri abbiamo fatto appunto su Vita It anche un articolo, un'intervista al presidente, stanno lavorando molto sulle coste, sugli sbarchi. Save the Children, che anche loro sono presenti in tutti i punti d'approdo. Ci sono le Misericordie, che tra l'altro da pochissimo stanno gestendo il centro accoglienza di Lampedusa, che è stracolmo e fino a un mese fa era completamente vuoto. C'è Amnesty, c'è Oxfam, e poi senza dimenticare le Caritas diocesane, locali, soprattutto quelle siciliane. Ci sarà anche la Croce Rossa, immagino. La Croce Rossa, sì, poi sì, c'è la Croce Rossa, ci sono anche le agenzie ONU, ovviamente l'UNHCR, l'Alto Commissariato per i Rifugiati. Certo. L'Alto Commissariato per i Rifugiati, ecco, quindi diciamo c'è un brulicare di presenze dalle agenzie ONU alle grandi ONG internazionali che sono presenti sul territorio, alle realtà locali come appunto le Caritas diocesane e parrocchiali che stanno in Sicilia davvero, anche nel resto d'Italia, ma in questo momento in Sicilia stanno aiutando tantissimo. Certo, tante organizzazioni che naturalmente poggiano, vengono finanziate in parte qualche volta pubblicamente, in parte chiaramente vivono e sopravvivono grazie anche all'aiuto del mondo e della collettività. Secondo te, Riccardo, è giusto incrementare un po' gli aiuti in questo periodo qualora ci si muova un po' il cuore, no, alla vista di queste tragedie del mare? Io prima ho dato un po' qualche indicazione che ci capita spesso di dare quando si verificano emergenze di questo tipo. Non pensate di poter fare qualcosa direttamente, perché sono poi aiuti che si perdono nel nulla. Secondo te in questo periodo possiamo un pochino incrementare gli aiuti anche andando magari in posta, pagando un bollettino? Sì, per esempio dando una mano anche alle realtà che dicevo prima, appunto dalle Caritas territoriali a queste grandi organizzazioni, certo. Se è un modo concreto per sostenere chi sta in prima linea. Poi l'altra cosa secondo me importante è che comunque ci sia un po' di, voi l'avete chiamata mobilitazione di cuore, e provare a guardare, diciamo, a questa tragedia, a questo esodo biblico, diciamo, non con i paraocchi, ma mettendosi in discussione, certo, facendoci qualche domanda sulla, diciamo, l'ingiustizia che c'è al mondo, la disparità, cioè insomma che ci, certo, sono miliardi di persone che hanno problemi a mangiare, esatto, e che scappa dalle guerre, cose. Ecco, non è che, esatto, si fa questo viaggio tanto per venire a fare la vacanza, come qualcuno la chiama. Allora sentite dalla nostra musica di sottofondo che dobbiamo dare la linea al giornale radio, andremo poi al 5 per 1000. Riccardo Bonacina ti spiegherà che cosa vuol dire questa riforma del terzo settore della quale si parla tra poco. Cuore e denari. Una monetina per uno te, un'altra monetina pure a te, così fanno tre, una monetina per questa sera. E come naturalmente ci aspettavamo, l'argomento, anche se noi vogliamo star fuori dalle polemiche, in realtà un grande dibattito lo ha suscitato. C'è chi si fida, c'è chi invece, chi non si fida, scusate, c'è chi invece dona a prescindere da tutte le contestazioni che altri fanno su poi come vengono utilizzati questi denari. In realtà ad averle tante monetine da donare, sono sicura che gli italiani avrebbero l'imbarazzo della scelta, perché il nostro paese è pieno di realtà di volontariato, di organizzazioni del terzo settore impegnate sui fronti più vari. Donare di tasca propria non sempre in questi anni è facile, lo sappiamo, ma oggi vi stiamo ricordando che però anche tramite la nostra dichiarazione dei redditi possiamo destinare delle somme senza avere nulla da perdere, scegliendo fra tante organizzazioni. Chiedo ancora un minutino di pazienza al nostro esperto sui temi della fiscalità legata al terzo settore, Giampaolo Concari, perché fra un po' Riccardo Bonacina deve salutarci. Volevo fare ancora un paio di commenti con lui sull'attualità. Siamo partiti dalle organizzazioni che in questi giorni sono attive per l'aiuto alle persone, per carità, cioè, alle vittime. Stiamo parlando in realtà ormai di una tragedia che si è consumata in mare, i superstiti purtroppo sono pochissimi, però insomma siccome tanti ne continuano ad arrivare, in realtà poi in prima linea ci sono tante associazioni che stanno lì già pronte all'accoglienza. Riccardo Bonacini, in realtà volevo spiegare ai nostri ascoltatori in che cosa consiste, qual è il contenuto della riforma del terzo settore del quale si sta parlando in questi giorni, che è discussa in Parlamento, ha avuto il via libera della Camera. Perché deve interessarci in prima persona questa riforma? Beh, credo che debba interessarci perché è una riforma che diciamo dà una direzione di maggiore trasparenza a tutto questo mondo delle organizzazioni non profit, perché gli dà una, diciamo, una cornice anche legislativa al di là delle singole leggi di settore, semplifica, diciamo, la vita delle organizzazioni e anche, diciamo, la rintracciabilità delle organizzazioni. Pensate che oggi ci sono più di 300 registri a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale, e ci sarà invece un registro unico delle realtà di terzo settore in questo paese. In più, diciamo, questa legge di riforma introduce anche il servizio civile universale, che è un servizio civile che non si limita a inviare i giovani che lo richiedono per quanto budget c'è, quindi se non c'è budget zero ragazzi che fanno il servizio civile, o se c'è poco budget pochi ragazzi, ma dice tutti quelli che chiedono di poter fare il servizio civile lo devono poter fare. Mm-hmm. In genere, diciamo, ogni anno sono circa 90.000 i ragazzi che chiedono di poter fare il servizio civile. Infine, questa legge c'è anche la riforma dell'impresa sociale, che interviene su una vecchia legge del 2006, che diciamo mette in campo questa figura giuridica in maniera più moderna e più attrezzata a fare sfide nuove. Ecco, in sintesi più o meno mi sembrano questi, certo, gli i asset punti della riforma. Gli asset, ha utilizzato un termine finanziario il nostro direttore. Riccardo, l'ultima domanda, poi ti lasciamo. Proprio nel mese di marzo Vita ha pubblicato un'inchiesta di copertina molto interessante, Quanto donano gli italiani, per la prima volta un'inchiesta completa che rivela il dato sulla generosità nel nostro paese, 12 miliardi di euro donati al l'anno. Abbiamo anche uno spaccato qualitativo di queste donazioni, possiamo dire che è tanto e poco, noi possiamo anche confrontarlo con dei dati che abbiamo trovato proprio stamattina con Marco Lombardo, relativi agli Stati Uniti, dove risulta che il valore medio delle erogazioni pro capite a favore del terzo settore è molto superiore a quello registrato in Italia, parliamo di 479 euro contro i 12 donati in media dagli italiani, quindi questi sì. 12 miliardi? Sì. Sì, diciamo sì, indubbiamente si può fare di più, diciamo così. Però per questo te lo spacchetto così, sono circa 4 miliardi e mezzo dati da individui, cioè donazioni da persone singole, sono più o meno altrettante dati da fondazioni d'origine bancaria, fondazioni d'impresa e altro tipo di donazioni. Poi noi abbiamo fatto un calcolo di circa 2 miliardi e mezzo, diciamo, la raccolta domenicale delle parrocchie, no? Delle offerte alle messe, quindi abbiamo aggiunto una serie di altre voci per arrivare a circa 12 miliardi. Che tra l'altro, esatto, diciamo, non è che sia proprio facile da censire quel flusso, esatto, là. Esatto, perché in Italia, a differenza di altri paesi come gli Stati Uniti, non c'è il giving report, no? Il report delle donazioni, e anche i dati a livello ufficiale sono, diciamo, scarsamente trasparenti. Certo. Noi abbiamo usato molto l'indagine Istat, quella del 2011, resa nota a luglio 2013, che è andata a spulciare bilanci di 301.000 organizzazioni. Quindi con quella siamo riusciti a ottenere un po' di dati, però bisognerebbe arrivare anche da noi a un report, diciamo, trasparente. Succede nei paesi più avanzati. Grazie Riccardo Bonacina, grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie, so che vi conoscete. Allora, Giampaolo Concari, eccoci a noi. Abbiamo già stuzzicato molti ascoltatori che vogliono già chiedere chiarimenti sulle 5 per 1000. Allora, prima di andare al merito tecnico della questione, direi di introdurre immediatamente Angela da Bologna, così ci dà subito materiale concreto da quale partire. Angela, benvenuta. Salve, grazie dello spazio. Grazie a lei, ci dica tutto. Ecco, volevo sapere, questo 5 per 1000, perché ho spento la radio e ho seguito poco adesso, sì. Ma riservato a quale organizzazione? Cioè, nel senso, qual è la finalità? Allora Angela, la può scegliere lei l'organizzazione alla quale devolvere, facendo una crocettina e utilizzando un codice fiscale in dichiarazione dei redditi, ma non vorrei sostituirmi al nostro esperto di questa mattina. Giampaolo, di nuovo buongiorno. Questo 5 per 1000 è uno degli strumenti che ognuno di noi ha a disposizione per sostenere le organizzazioni del terzo settore. Peraltro c'è anche l'8 per 1000 e il 2 per 1000, Chiesa Cattolica e partiti politici. Andiamo subito al concreto di quello che ci interessa questa mattina, del 5. Allora, mi permetto di aggiungere qualcosa alla giornata. Volevo dire, a proposito delle organizzazioni che si muovono e di quello che sta succedendo, che è una frase che ho trovato in rete e che mi è piaciuta tanto. Coloro che arrivano qua in Europa, chiedono asilo, non hanno nessuna colpa per essere nati nella parte sbagliata del mondo e noi nessun merito per essere nati nella parte giusta. Punto. Adesso parliamo del 5 per 1000, dell'8 e del 2. Capisco il trasporto che... che qualche volta queste situazioni appunto determina, Giampaolo, però noi lo condividiamo, questa frase ci è piaciuta molto adesso, senza fare tanto, come dire, certo. Un po' di... Eccoci qua. Allora, no, non è retorica. Allora, esattamente, senza fare alcuna retorica. Con la dichiarazione dei redditi di quest'anno, noi possiamo, le persone fisiche possono devolvere i loro parte dell'IRPEF a debito, dell'IRPEF dovuta dal soggetto, a, diciamo così, su tre canali. Il primo è l'8 per 1000 che va alle confessioni religiose, quindi sì, esatto, io ho detto Chiesa Cattolica, in realtà non sì, ho dato proprio l'informazione sì, esatto, perché diciamo che prevalentemente ecco, esatto, sì, confessioni religiose. Confessioni religiose, quindi c'è la Chiesa Cattolica, l'Unione delle Chiese Cristiane Adventiste del Settimo Giorno, le Assemblee di Dio in Italia, Chiesa Evangelica Valdese, Chiesa Evangelica Luterana in Italia, comunità ebraiche, arcidiocesi ortodossa. Per par condicio Giampaolo le vuole indicare tutte, però le troviamo appunto l'elenco. Ce ne sono 12. Non mi comincia ad indicare tutti i partiti politici ai quali è possibile devolvere il 2 per 1000, perché questo non gliela lascio passare. Andiamo al 5 per 1000 per rispondere ad Angela da Bologna. Ecco. 5 per 1000, allora ci sono 6 settori a cui si può dare il 5 per 1000, diciamo così, senza una specifica destinazione, cioè specifico l'ente destinatario, oppure in questo caso basta firmare nella casella, per esempio a sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni eccetera, si firma nella casella e allora questo 5 per 1000 va in un mucchio e viene distribuito tra gli enti a seconda delle preferenze che sono state espresse da altri contribuenti. Se invece lo si vuole dare, destinare ad uno specifico ente, allora si mette la firma e il codice fiscale. Benissimo, quindi Angela, speriamo di averle chiarito le idee, quindi si può fare una devoluzione generica o oppure una mirata. Se è mirata specifica, devi dare i riferimenti per far sì che venga individuata. Quando, se facciamo da noi, sì. Per i riferimenti, dal 25 di maggio l'Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito l'elenco di tutte le organizzazioni che hanno presentato domanda per essere ammessa a questo beneficio. Ammessa a questo, esatto. Quindi in realtà questo registro unico, in qualche modo, che indicava prima Riccardo Bonacina, che dovrebbe essere predisposto dalla riforma del terzo settore, un po' esiste già. Sì, però è un registro, diciamo così, a fisarmonica, perché il registro unico, che diceva Bonacina, riguarda oltre al nome dell'ente, riguarda anche le cariche sociali, riguarda un po' più altri dati abbastanza interessanti, che appunto si sente veramente il bisogno di avere un'unica banca dati dove qualsiasi persona va a vedere, certo, e per capire chi è e chi non è. Allora, 800 24 00 24, numero verde, telefoni aperti a voi se volete chiarimenti sul tema del 5 per 1000, come devolvere, dove finisce questo denaro. Adesso sentiremo Fabrizio dalla provincia di Prato, che tocca un tema che abbiamo preparato con Giampaolo Concari, lo affronteremo fra un istante. Però 5 per 1000, Concari, 8 per 1000 o 2 per 1000? Chiaramente, se io esprimo il desiderio di devolvere, che ne so, il mio 8 per 1000 ad una confessione religiosa, questo non significa che non possa contestualmente esprimere anche il mio desiderio di devolvere il 5 per 1000 o il 2 per 1000. Non sono alternative, vero, le tre scelte? Corretto. Tutte e tre si possono effettuare senza problemi. Benissimo. Oppure non effettuare, nessun problema. È vero che hanno facoltà di scelta anche i contribuenti che non sono tenuti a presentare il modello 730? Che cosa devono fare queste persone che non fanno la dichiarazione dei redditi, ma che ricevono solamente, per esempio, il vecchio CUD dall'azienda, no? La vecchia adesso si chiama certificazione unica. Esatto, allora questi soggetti, che sono un discreto numero, per devolvere il proprio 8, 5 o 2 per 1000, o 2 per 1000, sì, devono compilare una scheda che è allegata al modello CU, alla certificazione unica, e in questo modello, e questo modello lo possono presentare in busta chiusa ad un ufficio postale, e in questo caso la presentazione è gratuita, oppure lo possono presentare ad un CAF o un intermediario telematico. In questo caso però l'intermediario, il CAF, potrebbe chiedere, è legittimato a chiedere un piccolo obolo. Più o meno quanto è questo piccolo obolo? Quantifichiamolo. Non saprei dirvi, perché francamente io che faccio il commercialista lo farei anche gratuitamente, però io parlo di casa mia, adesso non voglio che arrivino tutte le schede. No, è probabile, è possibile che chiedano una piccola remunerazione per fare questo lavoro. Allora, andiamo a Fabrizio dalla provincia di Prato, perché in realtà esprime una sottolineatura che fanno in molti anche al 349-238-6666, che parzialmente ha del vero, perché negli anni passati questa situazione si è verificata, dovrebbe parzialmente essere risolta, però Fabrizio ce la riassuma con la sua perplessità questa situazione. Buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, il discorso è che io ho la massima sfiducia con la S iniziale nelle istituzioni, perché poi dopo si vede che nel dare i soldi, o quelli che ho dato io o quelli che hanno dato anche gli altri concittadini, non arrivano dove dovrebbero arrivare. Vedi, non ultima Roma, quello che è successo a Roma per tutte le organizzazioni. Ma se io vado a guardare anche qualcosa più ampio, per esempio, cosa che non c'entra, però poi all'interno delle organizzazioni, la mia paura, la mia perplessità è che sia anche che ci siano queste organizzazioni così grandi, vaste, che costano. Mi viene in mente la FAO. La FAO è un'organizzazione immensa che costa un casino e poi dopo alle persone non arriva niente. Poi ci sono, ma sono anche soldi, poi finanziate diversamente, Fabrizio. In realtà io posso anche comprendere, no, queste posizioni, che sono anche qualche volta condivisibili, per carità, però se uno poi la pensa in questo modo può certamente fare una scelta diversa, devolvere ad organizzazioni delle quali si fida, studia un po' di più, quelle magari un po' più vicine nel territorio. C'è il mondo del volontariato, per esempio, nel settore della salute, della sanità, degli ospedali, quindi non è necessario devolvere a organizzazioni come la FAO se la si pensa in questa maniera. Questa però è un'opinione personale. Detto questo, con cari, il tema è: negli anni passati, noi ci abbiamo fatto anche tante trasmissioni con lei, in passato era Salvadanaio, ci soffermavamo proprio sulle criticità più rilevanti che le devoluzioni, cioè, venivano trasferite nelle casse delle organizzazioni prescelte dai contribuenti, sempre con almeno 3-4 anni di ritardo, no? Questo riparto dei fondi avveniva sempre in maniera molto problematica. Oggi questa situazione è un po' più fluida, arrivano un po' più in fretta questi soldi. Se io decido di devolvere a che ne so, alla Caritas, al WWF o ad altre organizzazioni, entro quanto tempo queste associazioni hanno il denaro che io ho devoluto a loro favore? Diciamo che adesso siamo nell'ordine di un paio d'anni all'incirca. Però sono tempi tecnici, perché noi stiamo ragionando del 5 per 1000 delle dichiarazioni dei redditi del 2014, le presentiamo nel 2015. I denari relativi alla dichiarazione dei redditi 2014 arriveranno nel 2016. Prima non credo che si riesca a fare, perché ovviamente è una mole, certo, di lavoro che deve essere macinata, lavorata, eccetera. Allora, poi, a livello di fiducia, poi va detto che le organizzazioni più grandi devono tutti i destinatari del 5 per 1000 devono rendicontare l'utilizzo del 5 per 1000. Prima di tutto, certo. Seconda cosa, le organizzazioni più grandi, quelle che hanno un contributo superiore ai 20.000 euro, se ricordo bene, devono proprio inviare al Ministero del Lavoro la rendicontazione, certo, dell'utilizzo. Allora, in un'altra puntata ci occuperemo anche delle organizzazioni più piccole, quelle più vicine a noi nel territorio, se le possiamo sostenere. Ricordo che il 27 aprile esce con Il Sole 24 Ore uno speciale proprio sul 5 per 1000, curato anche tra l'altro dagli amici di Vita. Grazie a Giampaolo Concari per essere stato con noi. Noi in frettissima dobbiamo chiudere, Nicoletta. Ciao, a domani. Ciao. ProBios, l'azienda italiana dei prodotti biologici vegetariani e per intolleranze alimentari, vi ha presentato Cuore e Denari.